Ci gaffa, cucce d'Antonio. Che ti sto Franco in barra mobile, ti vede il segnale che ballerino barra mobile a questa parte, già ti sento, già io sono a casa, amica, se piglio una moto ti mando un attimino, ma cosa, ando veloce, c'è un po' di questi B, io ho un po' di rumore di fondo, come mai c'è quel REM, ho rimesso l'antenna in piedi perché era in orizzontale. Sento un po' di QRM, non so se è un problema, vi ho toccato qualcosa, Non lo so, lo devi sapere tu. Vabbè, io sono oscillante perché sono in macchina, Ma dico, tu in macchina ne hai il QRM? Quel c'è alzato. E adesso non ti ho sentito. Sento che c'ho lo squelch che è alzato. No, ti sei abbassato parecchio. Ora buona. Aspetta che sto camminando troppo, aiuto. Ho detto, ho lo squelch che basso ciò. Quindi... ancora sei in zona negativa per me. Ecco, mi senti? Tu pare che fai pure un'antenna soggia. Soggia, in terra è. Che zona sei? Quanto è dolce adesso? Adesso stai salendo un po', sei già 7-8. Ma se non c'è l'antenna giusta è normale che mi senti così. È normalissimo. È strano il tuo QRM che c'è oggi, non l'ho mai avuto, in genere questa antenna è molto, molto pulita, molto silenziosa, cosa ho toccato? C'è qualche apparecchio che sta dando fastidio. Ho provato anche a attaccare le ventole ma non cambia niente, il filtro è già inserito, vediamo che qualcuno magari qua in zona e mi dia una conferma se c'è QRM o se è un problema di antenna. Non lo so, non me ne rendo conto. Va bene, dai, io sto parcheggiando. Ci sentiamo. Devo prendere la moto, ok? Magari da casa poi ci ascoltiamo meglio. Buon rientro, ciao tu. A casa è a pompare il segnale. Casa, bene, mi senti? Sempre il 4,40. Guarda, livello di suono e di modulazione praticamente è più o meno il tuo standard, non trovo queste grandi differenze evidenti. No, vabbè, che sia il mio standard non ci piove, però c'è qualcosa che non mi convince nella ricezione, capito? Tutto qua. Ascolta il segnale com'è buono. Guarda, sei oltre il 9, qua allo smetterino dell'apparecchio. Oltre il 9, sto andando con... segnando 20 watt con picchi a 40. Guarda, la lancetta è tra il 9 e il più del 30, quindi questo dice lo strumento e questo ti sto dicendo. Capito, Dio. Va bene, va bene, va bene. Per il resto è tutto a posto? Più o meno sì, dai. Più o meno sì. E tu mi ascolti sempre, sempre come sempre. Non c'ho riferimento tuo, capito? Devo aspettare stasera perché devo fare ancora qualche regolazione, però devo aspettare stasera quando entra magari Gianni, qualcuno che c'ho un riferimento, perché tu non me lo ricordo. Non arrivi a 9 tu, ma con l'altra radio che si è staccata mi dovresti arrivare 9 abbondante. Non riesco a capire perché si è starata sta radio. Vabbè. Quando le cose non le usi non c'è niente da fare. No, più che altro non tanto per il segnale ma per la modulazione, per la radio, se è come sempre. No, la radio non si discute. Gianni, la radio non si discute, la tua radio è molto molto bella, è un bellissimo abbinamento, non ci sono problemi, capito? Va bene così, ottimo per la truppa. Sono contento, dai, va bene così, squadra che vince non si tocca, come diceva qualcuno. Allora, se ti vuoi toccare squadra che vince, allora è bello. Allora perdi, perché se prima vincevi la tocchi poi perdi. No, ma infatti non devo toccare nulla. Quello c'è e quello uso, non c'è altro, quindi va benissimo così, sono soddisfatto. Oia. Va bene, dai, nonostante le raffiche di vento forti la mia antenna è ancora in piedi, dai. C'è pigiata tipo amo la pesca, però ha resistito, dai. E a Garolini, una rete ha fatto, da tutte le parti, stavo ascoltando un radioamatore di Capoterra che ha fatto un danno allucinante. Ho visto qualcosa, una vedra costurata è passata, dai. Cassarola, l'acqua non chiede permesso a nessuno, Ma poi Capoterra lo sai com'è, ci sono le abitazioni che praticamente sono quasi in spiaggia, quindi le onde del mare hanno inondato un po', diciamo, tutte le vie, tutte le cose, alcune case anche. Sì, ho visto, insomma, questo po' di cose sia internet e anche altri giri, video lì, insomma. Cazzo, una vetta giusta, e anche lì credo che fosse Caragonone, se non sbaglio, cazzo, con i massi in mezzo alla strada, Ehi, Caragonone giù, anche a Santa Teresa, da tutte le parti ha fatto danno, fortunatamente qua è passato leggero, solo raffica di vento, ma pioggia no che non ha fatto, io non ne ho visto pioggia. Poca roba. Ha fatto due mandate veloci, ma niente di che, vabbè. Cazzo, con un metto che era di Randy, ui. Ma infatti, potevi tu, con un metto che era di Randy, ce l'ha fatto tutto. Uia, andave. Quindi adesso stai usando l'altra radio, sempre il K, no? Sì, io ho 140 e 440, 440 lo uso per le bande amatoriali. Questo l'ho rimesso in 3x9, funziona perfettamente, ma era molto fermo. E c'è qualcosa che non mi convince nello smitter, adesso vedo un pochino stasera se praticamente ho qualche riferimento, come ricordi io Gianni era con la radio normale intorno al 9 più 10, ma anche tu eri sul 9, ti ho sempre dato se io 7 e mezzo 8, quindi c'è qualcosa da rivedere, mi sembra prendere il manuale e rifaccio l'alterazione dello smitter, perché c'è da fare lo zero, insomma c'è un procedimento un po' particolare. Ehi, guarda, l'altro giorno ero su eBay, così stavo girando, così guardando un po' di cose in ambito elettronico, insomma roba per PC, hi-fi, stereo, roba del genere, e mi è capitato praticamente nei consigliati una pagina giapponese che vende roba di elettronica, e in mezzo a insomma all'apparecchiatura elettronica, e penso ci ho trovato il 140, I guess. Il manuale? No, la radio. C'era, è un pratico, sai, con i linguisti online giapponesi, insomma, aveva la pagina su eBay, ho visto che praticamente tra gli oggetti in vendita c'era anche un PV 140. E quanto lo stavano vendendo? Guarda, le foto, c'era una ventina di foto, la radio esteticamente era messa abbastanza bene, considerato che era un usato, stiamo parlando di convertito in euro intorno alle 300, mi pare era 300, 320 o 330 euro lì, in questo sito, questa pagina eBay. Quello è il prezzo, vanno dalle 250, 300, qualcuno vende 350, ma a 350 riesci già a trovare, sulle 350 a 400 si trova il 440, il 430, capito? Un 140 va bene intorno alle 250, 280 euro, ma massimo, ma deve essere bella, come dico io, 300 euro te li do, ma se poco bongo è fatta la gatto di Gari, dirà bene. No, ti ripeto Claudio, le fotografie erano parecchie, solitamente chi mette molte fotografie dettagliate non ha niente da nascondere, si vede che chiaramente è una radio usata, perché aveva dei piccoli segni dovuti all'usura, insomma all'utilizzo, però a livello generale proprio la radio era proprio cazzo, non dico nuova, ma quasi, dai. Allora va bene. Non è importante che ci siano magari i case che sono un po' rovinati, ci sono i vernici originali, anche io ne avevo fatto una bellissima, anche me l'aveva fatta un amico veramente, è uscita nuova, perché era praticamente stando ferma la vernice si era un po', quindi tutta levigata, portata a zero, fatti i case nuovi, è uscita bellissima. Il problema è il funzionamento, perché questi tipi di radio è piena di condensatori variabili, i cosiddetti trimerini, no? Che tutti vanno a toccare, a fare, se non sai toccare, la stari, la fai, quindi in AM non va più bene, in FM non va più bene, capito? Ed è un casino. E poi soprattutto gli slider devi stare attento a non andarci a regolarli con le unghie, lo slider del 140 e del 680 si regolano col polpastrello, in modo che tu non laschi e non togli la vernice, ma sai quanti cazzo ne ho visto? Io ne ho avuto una trentina forse di 140, ma quando li ho venduti o li ho dati a qualcuno, gli slider erano perfetti, capito? Erano perfetti, ne ho procurato da poco uno, un amico, nuovo, ma nuovo veramente, nuovo, usato benissimo. Cazzo, l'unica cagata che aveva, lo slider è consumato, perché? Anche invece di ducarlo col polpastrello, lo slider, ci vanno con le unghie e raschiano e togli la vernice. Ho capito, sì, poi chiaramente, ti ripeto, quello io l'ho visto proprio così di passaggio, poi giustamente la parte fondamentale, quella principale, è il funzionamento elettronico dell'apparecchio, però dico, per come l'ho visto, gli ho dato uno sguardo così, mi sembrava in buonissime condizioni, poi vabbè c'era tutta la descrizione in inglese, c'era un fardello di roba scritta mi sono giusto soffermato così a leggere qualcosa, insomma mi sembrava messa bene, dai, per quanto la mia conoscenza sia abbastanza limitata in certi aspetti, dai. Comunque non avevo intenzione di acquistare roba del genere, anche perché in questo momento ho altre priorità, quindi era giusto la curiosità di vedere la descrizione di questo apparecchio, dai. È più o meno qual era la valutazione odierna. Si conferma, molto bene. No, beh, io li chiamo il 140 C80, 430 e 440 già sono superiori perché sono tre conversioni, sono queste due conversioni, se 140 C80 li chiamo baracchini a sintonia continua, già, capito? Sono delle belle radio per usare in banda laterale, in FM, ma soprattutto in 10 metri, in 11 metri, se vai in 20, 15, in 40, in 80 non comprendo un cazzo, che è talmente rumoroso che non ti fa ascoltare, capito? Quindi io li ho sempre definiti delle ultime radio per la 27 e basta. Ho capito, vabbè, tu che ne hai masticato parecchio avrai maturato una certa esperienza, quindi non ci metto becco, io sono molto molto indietro sotto questo punto di vista qua, non ho avuto modo mai di approfondire, di andare oltre, dai. Ma proprio perché non ho per tutta una serie di situazioni varie, mi sono sempre limitato al baracchino classico, dai. Va bene così, dai, cra. Io adesso mi devo assentare perché devo sbrigare qualcosa a casa e casomai ci risentiamo dopo se rientri, ok? Io già, piena libertà, ti dico solo che dal 1987 ho chiuso queste radio io. Queste radio io uso dal 1987, non ho mai modulato col baracchino, qualche baracchino ho usato, ma molto molto molto raramente, sempre con queste, quindi mi sono fatto una certa cultura e soprattutto queste qua piccoline le conosco bene. Ok, ciao Gianni, ci aggiorniamo stasera, grazie delle due chiacchiere, grazie del controllo, quindi non tocco niente, la lascio così, vedo un pochino di leggermi il manuale, di fare la regolazione dello smitter perché si è starato. Ok, ciao Gianni. Lega, dai, puntella, non tocca nulla, dai, ci aggiorniamo, dai, buon proseguimento. Ciao Gianni, grazie. E beh, Lillo, butta giù la pasta, è pronta. E beh, pupo. Oi, Ciccio. Attenzione, 10! Avanti, chi è? Antonio Zocco! Saluti, Luca da questa parte. Oh, ciao Luca, buonasera. E mi in barra mobile, Antonio in barra mobile. Fa salutoni e ben sentito. Il rientro da lavoro? No, sto uscendo a fare commissione. Forse a lavorare si fa domani, un po' fiacca è per me il lavoro. Non so che settore è, ma è fiacca un po' per tutti. Settore dello spettacolo. Service. Luca, ho detto settore dello spettacolo. Ho copiato. Chiedevo, ma è spettacolo come service? Ok. Lavoro fino a fare palchi che come service pure, brocaut. No, non è la stagione sua. No. Ho lavorato con Roccaut, ho lavorato con Donair, ho lavorato con molti service, ho lavorato. Però più di tutti con Roccaut e con Tiki, quello che fa i palchi. Uno che ha assistito. Io tanti anni fa lavoravo col service GS, GS stava per Giuseppe Solinas, ed era il service che accompagnava il Sole Nero. Sì, è una di... E vabbè, avevo 17 anni, figurati, ne ho 56, se mo va vedendo i 40 anni fa. Ma cosa ha lavorato? Con il gatto? No, ci lavorava il figlio di Solinas, e nel Sole Nero ci suonava sempre il figlio di Solinas, il batterista, e siccome avevamo tutti la casa giù al Villaggio Grigio, ci aveva ingaggiato a noi ragazzi per allestire il palco, piazzare batterie, la gabbia americana delle luci, quelle casse che allora pesavano un trono, che non sono come le casse moderne di adesso, pisavano, c'erano i woofer, ci voleva Cermiglia a sollevarle. Non ti credi, già sono pesanti, siete mille, quelli grossi. Però c'hanno i motori, c'hanno le ruote, quindi è più facile. Vabbè, i tempi sono cambiati, però mi sono divertito da matti. Abbiamo girato tutta la Sardegna per fare questi allestimenti e poi per smontare tutto una volta finiti i concerti, ma eravamo ragazzini, eravamo liberi perché eravamo in giro, guadagnavamo anche qualcosa ed era una figata, la verità. Altri tempi, Sole Nero mi pare, ma può essere, no? Però con Andrea Portica, no? Sì, prima erano Solimar e poi erano diventati Sole Nero quando il coro degli angeli si erano separati, l'azienda da una parte e i fratelli Putti che si erano uniti ai Solimar ed erano diventati Sole Nero. Sì, mi ricordo questa storia, mi ricordo questa storia qua, mi ricordo bene. Perché ho visto il video di questa cosa. Sì, ma poi non seguivano solo loro, noleggiava il service anche per dire a Gio Squillo quando era venuto in Sardegna e altri cantanti. Mi senti ancora? Sono qua, ero che paccata. Dove sei? Ok, paccata. Ah, sulla Budi Budi. Sì. Non parlo a turno di bianco, ci sentiamo. K Roger, buona serata. Magari prendo l'occhio, ciao ciao. C'è nessuno? C'è nessuno, canale 10, pronto? Hola? Hola, hola, c'è nessuno? Pronto? C'è qualcuno? Avanti con la buonasera, saluti a tutti Luca. Ciao Luca, buonasera, ben sentito. Non ce ne sono stasera. Ancora non vi riconosco dalla voce. Io sono mitico. Mitico, mitico, Claudio Sparviero, ciao, buonasera. Salutoni Claudio, ma è a te che è andato via il compagnetto ieri? Non ho capito, è a me? Ieri ho sentito di qualcuno che ha perso il cagnolino, che gli è morto il cane. Sì, a me. Vabbè, poverino, aveva quasi 14 anni. Ce l'ha fatta, abbiamo fatto di tutto per tenerla in piedi, però lunedì non ce l'ha fatta, già da lunedì mattina era, respirava male, capito, che è un grosso, quindi già c'aveva due tumori, perciò portato al veterinario, ho provato a fare una flebo per farlo riprendere, ma non ce l'ha fatta, vabbè. Ascoltami, cambiamo discorso. Come ti arrivo lì da te? A palla, a manetta proprio. Un manettone? Sì. sì sì, radio al massimo e segnale pure. E anche tu non scherzi, eh? Anche tu non scherzi, c'è un bel segnale, sto andando con un TS-140 della Kenwood, microfono MC-60, una radio a livello amatoriale, non è un baracchino, eh? Stavo facendo due tarature. Ho fatto la taratura dello smitter che mi avevano insegnato come si faceva, perché c'era da fare un procedimento, quindi adesso il segnale va bene perché c'avevo tutto segnato, ho trovato il foglietto dove c'erano i segnali, io mi segno tutto e quindi ho visto che il tuo segnale corrisponde al cartaceo. Ma stai facendo le prove di taratura cosa? Cioè lo smitter per che cosa? Per le stazionarie? No, lo smitter per la ricezione, quello è lo smitter. Lo smitter, i segnali rimanevano più bassi del solito. Insomma, questa è una radio che uso molto poco e quindi ho rifatto la taratura e sotto il segnale 9+10, come ho visto sull'altra radio praticamente. E poi ce l'avevo segnato, stavo aspettando che entrava Gianni per vedere se il segnale di Gianni era giusto. Oggi mi è arrivato da Temo un accordatore di antenna AT100, sembra bellino. L'AT100 l'ho avuto io, ho avuto l'AT100, l'AT120, l'AT130, adesso invece ho l'AT250 che è quello di linea della Kenwood. Ma io l'ho comprato da AliExpress, l'ho pagato 38 euro e sinceramente non so cosa mi serva, nel senso che l'antenna nuova che ho messo sul tetto non dà ROS, è 1.1 e io non ho tante cose da collegare eccetera. C'ho un Midland Alan 48 che esce 4 watt, l'antenna è accordata, però me l'ho preso perché faceva figo, capito? Sì, beh, gli accordatori, i ROS, mentre i wattmetri ci vogliono sempre in sala radio, in stazione, perché è sempre meglio tenere tutto sotto controllo. Beh, io ho la linea completa della Kenwood, quindi c'è l'accordatore automatico di linea con rosmetro, wattmetro, accordatore e commutatore d'antenna, tutto un pezzo, capito? Beh, io ho procurato questi baracchini dai miei colleghi che ce li avevano prima montati sui camion e poi ce li avevano buttati in garage, e quando ho sparso la voce che volevo rientrare in frequenza me ne hanno regalato 3. Però l'antenna l'ho comprata, esco 4 watt e già va bene così per adesso. Alla grande. Ascolta, dammi 5 minuti che sto accendendo la caldaia e devo seguirla fino a quando non parte, perché sennò poi va troppo in alto come temperatura. Dammi 5 minuti, arrivo subito. Vai tranquillo, che intanto io mi sto provando un alimentatore che mi è arrivato lo stesso e me lo sto mettendo a 13,5 perché è arrivato a 12 volt e sto lavorando sul trimmer. Con comodo. Ok, Kappa, ti ringrazio. Hola, hola, hola. C'è nessuno qua sul canale 10. Cambio.